Cari cristiani, stiamo vivendo il tempo pasquale, che è un tempo molto importante, anche se non sempre capito e valorizzato al dovuto modo. Pensate che è lungo quanto la Quaresima. È lungo più dell'Avvento, sono 6 settimane. Perché la Chiesa ci propone questo tempo altrettanto forte quanto l'Avvento e la Quaresima? Perché la Chiesa desidera stare a lungo col suo Signore risorto. E infatti i brani che saranno proposti in queste settimane saranno tutti di stampo tipicamente pasquale. E nello stesso tempo, oltre che a voler stare in compagnia del suo Signore risorto, prima che lui lasci questa terra e ritorni definitivamente al Padre con l'ascensione, è anche un tempo a cui la Chiesa ci tiene molto, perché la Chiesa guarda, io dico quasi un verbo spia, il comportamento degli apostoli per imparare. Loro sono sempre stati con Gesù, hanno avuto Lui come difesa, come maestro. Adesso è loro tolto, devono nuotare da soli, devono camminare da soli. E allora è molto interessante vedere qual è il loro comportamento, anche se sarà un comportamento meraviglioso e anche tremendo, perché comincia per loro il tempo della persecuzione. Il loro maestro è stato ucciso, risorto, ma prima ucciso. Così sarà anche per la Chiesa dei primi tempi, così sarà anche per gli apostoli, ed è una persecuzione che non è ancora terminata oggi. Oggi abbiamo sentito leggere il brano degli Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 8, in cui i discepoli sono chiamati a giustificarsi per aver fatto un miracolo, per aver guarito una persona malata. Chi va dato l'autorità? Beh, noi l'abbiamo fatto nel nome di quel Gesù che voi avete condannato e ucciso, ma Dio l'ha risuscitato. Bene, allora cercate di smetterla. Questo è l'ordine perentorio. Se no, ve la vedrete brutta. E qui gli apostoli escono con questa frase straordinaria. Se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. E con questo si firmano la propria condanna. Infatti, in un modo o nell'altro, prima o poi, questi primi apostoli saranno uccisi a imitazione del Signore morto e risorto. Vedete, cari cristiani, io oggi non voglio fare una predica come quello che sa le cose e va a insegnarle agli altri. Vorrei mettermi con la fronte a terra e chiedere perdono a Gesù se devo dire cose più grandi di me e più grandi di voi, ma non posso tacerle, perché anch'io le ho imparate dallo Spirito Santo. Questa frase, noi non possiamo tacere, anche se ci minacciate di morte, perché noi Gesù l'abbiamo incontrato per davvero. Che cosa ne deriva questo, cari amici? Ne derivano delle cose tremende. Io vi farò qualche esempio. Vi chiedo in un certo qual senso scusa di agitare i vostri cuori, ma prima è rimasto agitato il mio cuore nel pensare le cose che vi dirò. Se nel mondo i credenti in Gesù avessero da Dio la forza, la grazia di poter obbedire a Dio piuttosto che agli uomini, non avremmo avuto il processo di Norimberga, in cui dei criminali li chiamano così, ma prima erano osannati, criminali nazisti, sono stati condannati per i delitti contro l'umanità e questi si sono difesi dicendo: noi eravamo militari, abbiamo dovuto obbedire agli ordini. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ma va di mezzo la mia vita, come quel soldato tedesco che, richiesto di fucilare al muro esterno del cimitero un gruppo di forse partigiani o persone rastrellate insieme al loro parroco in quel paesino dell'Appennino, un soldato tedesco richiesto di sparare contro questa gente inerme, dice: io non sparo, non uccido loro e non uccido il prete. È stato messo accanto a loro e falciato insieme con loro. C'è da inorridire, ma è questo, cari amici, è quello che ha fatto Gesù ed è quello che Gesù chiede a noi. Forse lo dico per me, sono troppo superficiale nel dire: voglio seguire Gesù. Voglio seguire Gesù se lo Spirito Santo mi dà la forza di andare controcorrente, di giocare la mia vita, come quella gente che sul lavoro viene richiesta di fare degli illeciti e se non li fanno c'è il rischio del licenziamento. Io non vorrei trovarmi al loro posto, però, pensando, chiedendo perdono a Dio delle parole che dico, c'è forse gravità e gravità, perché se nella tua clinica o nel tuo polo sanitario tu sai che acquisti protesi difettose perché c'hai la tangente e le innesti su delle persone comuni, no, questo è troppo grave. Se tu sai, per stare ancora in questi campi della sanità, dove si specula sulla salute della povera gente, qualcuno è stato condannato a Milano perché ha fatto delle operazioni, degli interventi inutili e in qualche caso invalidanti o che hanno condotto anche alla morte, non si può non dire: bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Oppure quante volte senti che a livello interno o internazionale si specula sugli aiuti alle popolazioni affamate, alla povera gente? Non si può. Bisogna obbedire a Dio prima che agli uomini. Anche se dobbiamo chiedere: Signore, fa che non vada di mezzo la vita, ma se dovesse andare di mezzo il posto di lavoro, o Dio non voglia la vita, che il Signore, è difficile essere eroi, amici, ma il cristiano è chiamato a seguire Gesù. Io dico queste cose chiedendo perdono a voi e chiedendo perdono a Gesù e dicendovele non come predicatore, che non ne avrei il coraggio, ma dicendovele come colui che ha meditato la parola di Dio e dice: bisognerebbe fare così, Signore. Abbi pietà di noi e donaci la grazia e la forza di saper rinunciare a tutto, ma non al tuo esempio, al tuo modello, o Gesù crocifisso e risorto. Amen.